liberi come leoni nella savana del cielo, liberi anche la notte, padroni del nostro destino, liberi di accendere fuochi, di mangiare asparagi crudi, di prenderci in braccio, di partorire fiori a maggio, liberi di navigare, di abbrustolire pane, di andare al di là del tramonto a scoprire le rose del vento, liberi di pensare che questo mondo ha bisogno di sale, di pensieri profondi, lontani dal fango del fango, liberi di rifiutare chi sputa rospi con le sue parole, liberi di essere liberi sulle autostrade che portano al mare, liberi tra le stelle e le galassie che hanno il cuore ribelle, liberi di liberare chi crede ancora in un mondo migliore, liberi di ritrovare in ogni sguardo la voglia d'amare, liberi di aiutare chi si fa in quattro anche per due lire, liberi di respirare ogni silenzio, ogni canzone, liberi di fare esplodere ogni barriera, ogni prigione. Alghe dell'innocenza sono le armi del nostro cuore, liberi di danzare sotto la luce del sole, liberi come dannati, come angeli disperati, liberi come farfalle a giron solare tra le stelle, liberi come uragani di pioggia piene le nostre mani, liberi come aquiloni sulle cicatrici dei nostri polmoni, liberi da fare invidia a chi si nutre di sporca storia, liberi di sventolare al vento tutta la nostra memoria, liberi di prenderci a calci e arrotolarci in mezzo al fieno, a fare suonare fili d'erba a mille all'ora in ogni curva, liberi di aspettare l'aurora ad occhi aperti sotto la luna, liberi di prenderci il tempo, tutto il cielo e tutto il vento, liberi di metterci la faccia, tutta la vita una libera scelta, liberi di dire basta a chi umilia se stesso e la terra, liberi tra le stelle e le galassie che hanno il cuore ribelle, liberi di liberare chi crede ancora in un mondo migliore, liberi di ritrovare in ogni sguardo la voglia di amare, liberi di aiutare chi si fa in quattro anche per due lire, liberi di respirare ogni silenzio, ogni canzone, liberi di danzare sotto la luce del sole, perché liberi siamo nati e liberi resteremo e niente ci potrà fermare e mai ci fermeremo, liberi. Liberi. Liberi come leoni nella savana del cielo. Liberi anche la notte, padroni sempre del nostro destino.